την έτσισα η νησερουέλα. Δε με ρίγου η καφακίνα η σαν μην τα βάταλα κι όποια το ελληνένα. Που σε κονιούει μαρνουλού κυρά. Cosa con voi, Marlo, Kira? Cosa con voi, Marlo, Kira? Che la cosa mengine. Ma c'è per di chi la nessina che te gai meglio una gash pure che te la togli che mi incocci lo capi la salam suga che mi incocci lo capi mush la salam suga kanya kun kun ya fe Fela fi malle di nulul kacay nor ka fe dinna toraki malle jawi ne tradagle ti wekka godiga Yeah. ser. Y la alfa y gaya de mí. Cargo llega,